Il senso è quello di riflettere chiaramente insieme sul tema della crisi climatica, che è un tema che purtroppo in parte è stato, se vogliamo, quasi messo da parte ora dalla pandemia, quando sappiamo che anzi le cose sono profondamente collegate, cioè la crisi climatica poi genererà altre crisi come questa sanitaria che stiamo vivendo, ma anche una crisi sociale, la crisi economica, e quindi vogliamo rimettere al centro questo tema, capire quali sono le soluzioni, ma anche capire noi cosa possiamo fare. Quindi il dibattito sarà strutturato così, ci sarà una prima parte con delle voci da 5 continenti, testimonianze di percorsi di lotta dall'Europa, il Sud America, l'Asia, e poi invece la seconda parte darà voce un po' ai movimenti italiani, quindi ci saranno per esempio i movimenti che si battono contro il petrolio in Basilicata, per esempio i movimenti invece abruzzesi che si battono contro il gasdotto Snam, ma anche chiaramente esperienze più vicine al territorio dell'Emilia Romagna, come chi si batte a Ravenna contro Eleni, contro la petrolizzazione, ora contro quest'ultimo scempio che vogliono fare del grande investimento per l'assorbimento di CO2 proprio utilizzando il recovery fund. Quindi ecco, cercheremo di ribaltare un po' questa prospettiva fossile che purtroppo anche il nostro paese continua a seguire, e capire noi a livello di movimenti, associazionismo, società civile, come possiamo costruire un percorso alternativo. E infatti proprio questo incontro all'interno del Festival della Partecipazione suggerisce che, come dire, un cambiamento deve essere partecipato, cioè le istituzioni non possono pensare di andare da sole, ma devono, come dire, coinvolgere anche cittadine e cittadini. Sì, lo spirito è sicuramente quello, anche perché noi vogliamo anche capire il ruolo dei movimenti, quale può essere in questo momento, in questa fase molto difficile, diciamo. Cioè, c'è stato Global Strike, lo sciopero per il clima, che però chiaramente ha visto anche questa forma di partecipazione svolgersi in maniera comunque ridotta, perché è chiaro che la pandemia e le limitazioni diminuiscono, anche restringono gli spazi di mobilitazione, gli spazi di partecipazione. Anche per questo, insomma, noi siamo stati costretti a fare l'incontro online, e sinceramente noi vogliamo capire in questa fase, quindi in prospettiva, come invece impedire che in qualche modo queste restrizioni limitano sempre di più anche gli spazi di mobilitazione, gli spazi di partecipazione, perché dobbiamo fare in modo comunque di mantenere dei rapporti di forza che continuino a mettere pressione sulle istituzioni, perché come dicevo purtroppo al momento, nonostante tante parole, tanti bei proclami, la direttiva che continuiamo a vedere è sempre quella dettata dalle grandi aziende come l'Eni, che continua a investire la gran parte dei suoi fondi e dei suoi ricavi nell'industria fossile, cioè nel petrolio, nel gas, invece le rinnovabili lascia le briciole, o a volte lo fa con le finte rinnovabili, col greenwashing, come è stato il caso adesso del diesel fatto con il biodiesel fatto con l'olio di palma. Quindi c'è tutto uno spazio di discussione e di rilancio di una nuova agenda politica che noi crediamo che i movimenti debbano prendere. Ecco, anche in seguito a questa crisi, ma in realtà è una questione che era già preesistente, nel dibattito pubblico spesso si mettono in contrapposizione il lavoro, l'economia e l'ambiente. Sono davvero in contrapposizione? No, assolutamente no. Diciamo anzi che questo freno a mano tirato da parte dell'industria del fossile, così come l'industria automobilistica in Italia, in realtà sono il freno a una nuova economia, l'economia basata per esempio su modelli di economia circolare, di riconversione ecologica, l'economia basata per esempio su tutti i meccanismi di produzione di energia in maniera distribuita. Questa è una riconversione economica che creerebbe tantissimo nuovo lavoro, tantissimi nuovi posti di lavoro, aprirebbe le porte anche a nuovi modelli di economia civile, che magari non hanno al centro il grande profitto di alcune grandi aziende, ma genererebbero sicuramente un maggior benessere più distribuito, e ci porterebbero anche a affrontare quindi il tema delle disuguaglianze. Noi siamo consapevoli che la parola d'ordine dei movimenti anche in questo Global Strike sarà proprio quella della giustizia climatica, perché non c'è giustizia ambientale senza giustizia sociale, e questo un po' anche il senso di questa conversazione che faremo sabato, perché crediamo insomma che questo, la riconversione ecologica, sia anche una chiave per ripensare il nostro sistema di sviluppo, ripensare la nostra economia e anche la nostra socialità. Certo, allora io ricordo l'appuntamento alle 15 di sabato, partecipiamo al futuro cambiando il presente e la crisi climatica. È possibile seguire l'evento dal sito festivaldellapartecipazione.org o anche appunto dalla pagina Facebook di ActionAid, del Festival della Partecipazione.